tutto cosa diventerò. Rinchiuso in una stanza senza aria. Ora che ho deciso di essere fragile, non sarò al comando di nessuno. Degli amici di Rock FM over in Malpunk con Sono il Re, grandi amici perché ci hanno tenuto tanta compagnia nel corso di questi anni e perché poi torneranno anche in quella che sarà purtroppo poi la nostra ultima settimana di diretta. Iniziamo con loro. Buongiorno, bentrovati su Rock FM in questa ultima giornata. Venerdì si chiude un'altra settimana e lo diciamo di solito all'arrivo del venerdì, soprattutto la sottoscritta era sempre felice come una Pasqua. Ora i venerdì non mi piacciono tanto, almeno questi ultimi non mi piacciono. No, assolutamente no. Viva il lunedì! I nostri contatti oggi non servono perché vi avviso che solo per oggi sarò in versione virtuale. Sto cercando di evitare il più possibile l'essere registrata e tutto, però purtroppo oggi sto aveva da fa. Quindi anzi pensatemi intensamente per le prossime ore. Intanto continuiamo con un altro grande amico di Rock FM, Serge Tankian con Sky's Over. To cradle the sun, living in remorse. Sky is over. Don't you want to hold me, baby? Disappointed, going crazy. Even though we can't afford, the sky is over. Even though we can't afford, the sky is over. I don't wanna see you go, the sky. insieme con Skies Over i Fumanchu, o Fumanchu, con Squash the Fly. Anche loro sono venuti spesso e volentieri qui in radio, molto carini, molto simpatici. I prossimi invece ci hanno sempre un po' paccato, perché sono nordici, sono freddi, però hanno tanta grinta e energia durante i loro concerti. Sono The Hives, questa è We Rule the World. Now to be a hummingbird. Whispers in her ear. Oh, now you know I just don't care. Accento inglese fantastico, i Cooks arrivano da Brighton e il loro nome è stato liberamente ispirato alla canzone del grandissimo David Bowie chiamato proprio Cooks. Questa canzone si intitola Always Where I Need To Be e fa parte del loro secondo album, Conk, album che sta andando molto bene. Già il primo era andato molto bene soprattutto in Inghilterra e proprio grazie al primo lavoro intitolato, se vi interessa ve lo dico, Inside In, Inside Out, hanno riscosso anche un discreto successo in America. E a proposito di America, i prossimi arrivano da Detroit, sono Bon Bundies, questo è We Are Kamikazes. I don't care anymore. con piacere anche i pochi incontri con i Yellow Card, sempre molto carini, molto gentili e molto disponibili con Rock FM. Quest'oggi ritrovati con Lights and Sound. Mannaggia, non faremo in tempo a intervistare i prossimi e in questo caso ci terremo, anche perché i ragazzi ci piacciono, ci ispirano veramente tanta fiducia. Andate a visitare il loro sito internet che è molto bello, airbornrock.com. Arrivano da Melbourne, Australia. Sono cresciuti con gli ACDC, questo lo dicevo sempre. L'album in Italia arriverà forse tra 2-3 anni, se tutto va bene. Nel resto del mondo esce il 30 maggio. Li vedremo all'interno del Gods of Metal nella prima giornata. Questa è Running Wild.